Lo zar Putin vince per la terza volta e piange. Bersani perde per la terza volta e dice che tutto va bene. Forse è meglio che il segretario del PD faccia un breve stage da Putin. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te.